Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. Ti ho già detto, lettore, che avevo imparato ad amare Rochester. Non potevo certo disamarlo adesso, solo perché avevo scoperto che non si accorgeva più di me. Mi accadeva infatti di passare ore in sua presenza senza che lui volgesse mai lo sguardo nella mia direzione. O perché vedevo che tutte le sue attenzioni erano per una gran dama che non si degnava di sfiorarmi con l'orlo del vestito passandomi accanto. E che semmai i suoi imperiosi occhi scuri si posavano per caso su di me, li distoglieva immediatamente come se l'oggetto fosse troppo ignobile per meritare la sua attenzione. Non potevo disamarlo solo perché ero certa che avrebbe sposato presto proprio quella signora. Poiché non passava giorno senza che leggessi in lei l'orgogliosa certezza delle intenzioni di Rochester nei suoi confronti, e non passava ora senza che scorgessi in lui una forma di corteggiamento che, sebbene svagata e mirata a farsi cercare piuttosto che a cercare, era non di meno accattivante nella sua svagatezza e irresistibile nella sua alterigia. In tali circostanze non c'era nulla che potesse raffreddare o allontanare il mio amore, sebbene ci fosse molto per gettarmi nella disperazione. E anche molto, lo vedi bene, lettore, per ingelosirmi, seppure una donna nella mia posizione poteva avere l'ardire di essere gelosa di una come la signorina Ingram. Ma io non lo ero, o lo ero molto di rado. Quella parola non poteva esprimere la natura del dolore che provavo. La signorina Ingram era al di sotto di ogni gelosia. Era troppo inferiore per suscitare un sentimento del genere. Perdonami l'apparente paradosso, ma so quello che dico. Lei era tutta apparenza, non era genuina. Aveva un bel corpo, era una donna brillante, piena di talento, ma era povera di spirito e aveva il cuore arido per natura. Su quel terreno nulla fioriva spontaneo, nessun frutto naturale si offriva generosamente all'altrui piacere. Non era buona, né originale. Non faceva che ripetere frasi fatte che aveva letto nei libri. Non esprimeva opinioni personali, né tantomeno ne aveva. Esibiva grandi sentimenti, ma non possedeva alcuna sensibilità o compassione. Era priva di sincerità e di tenerezza. E si tradiva troppo spesso, dando libero sfogo all'antipatia e al disprezzo che provava per la piccola Adele. Se appena la bambina si avvicinava, la allontanava con epiteti ingiuriosi, talvolta ordinandole di uscire dalla stanza e trattandola sempre con freddezza e acrimonia. Altri occhi oltre ai miei osservavano queste manifestazioni del suo carattere e le osservavano attentamente, con occhio acuto e penetrante. Sì, il futuro sposo, Rochester in persona, esercitava sulla sua promessa una continua sorveglianza. E proprio da questa sagacia, questa cautela, questa chiara e perfetta consapevolezza dei difetti della sua bella, unite all'evidente mancanza di passione nei suoi sentimenti per lei, nasceva il dolore che mi tormentava di continuo. Mi resi conto che l'avrebbe sposata per ragioni di famiglia, o forse politiche, perché il suo rango e le sue amicizie gli avrebbero recato un vantaggio. Sentivo tuttavia che non le aveva dato il suo amore e che tutte le qualità che lei aveva non le sarebbero valse quel tesoro. Era questo il punto, il nervo scoperto, ciò che causava, alimentandola, la mia febbre. Lei non riusciva a incantarlo. Non ho detto ancora nulla per condannare il progetto del signor Rochester di sposarsi per convenienza. Quando scoprì che era questa la sua intenzione, rimasi sorpresa. Non mi sembrava il tipo d'uomo che si fa influenzare da motivi così volgari quando decide di prendere moglie. Ma più riflettevo sulla condizione, l'educazione di entrambe le parti, tantomeno mi sentivo incline a giudicare e a biasimare sia lui sia la signorina Ingram per comportarsi in conformità alle idee e ai principi installati in loro senza dubbio fin dall'infanzia. Erano principi condivisi da tutti quelli della loro classe. Supponevo dunque che per mantenerli avessero ragioni che io non potevo immaginare. A me sembrava che se fossi stata un uomo come lui, avrei dato il mio cuore solo a una donna che fossi stato in grado di amare. Ma l'evidenza stessa dei vantaggi che questa condotta avrebbe garantito alla felicità del marito mi convinceva che dovevano esserci dei motivi per non seguirla, per me imperscrutabili, altrimenti avrebbero agito tutti quanti come avrei voluto io. Ma anche su altre questioni stavo diventando molto indulgente col mio principale. Stavo dimenticando tutti i suoi difetti che un tempo avrei guardato con occhio severo. Era un pomeriggio di pioggia. Di conseguenza la gita, prevista a un accampamento di zingari che si erano insediati di recente su un terreno subito dopo Hay, fu rimandata. Alcuni degli uomini erano andati nelle scuderie. I più giovani, assieme alle signorine, si erano messi a giocare a biliardo nell'apposita sala. Le signore Ingram e Lynn si consolarono giocando tranquillamente a carte. Blanche Ingram, dopo aver spinto con uno sdegnoso silenzio i tentativi della signora Dent e della signora Ashton per coinvolgerla nella conversazione, si era dapprima seduta al piano a canticchiare qualche motivo sentimentale, poi, dopo aver preso un romanzo dalla biblioteca, si era buttata su un divano, altera e indolente, preparandosi a ingannare quelle ore tediose d'assenza con la magia della prosa. La stanza e il resto della casa erano silenziose. Solo di tanto in tanto si sentivano al piano di sopra le voci allegre dei giocatori di biliardo. Si avvicinava il crepuscolo e già l'orologio aveva avvertito che era ora di cambiarsi per il pranzo, quando la piccola Adele, che era inginocchiata vicino a me sul sedile sotto la finestra del salotto, esclamò all'improvviso: «Ecco il signor Rochester che torna!» Mi girai e la signorina Ingram balzò su dal divano e anche gli altri alzarono gli occhi dalle loro varie occupazioni, perché in quel momento si udì uno scricchiolio di ruote e un batter di zoccoli accompagnato da schizzi sulla ghiaia bagnata. Si stava avvicinando una vettura di posta. «Ma come gli viene in mente di tornare così?» esclamò la signorina Ingram. «È partito con il cavallo nero, non è vero? E aveva con sé anche Pilot. Cosa ne ha fatto degli animali?» Nel pronunciare queste parole si avvicinò tanto alla finestra che con quelle vesti così ampie e alta com'era mi costrinse a piegarmi all'indietro fin quasi a spezzarmi la spina dorsale. Nella sua impazienza da principio non mi aveva notata, ma quando si accorse di me arricciò il labbro e si spostò verso un'altra finestra. La carrozza si fermò. Il cocchiere suonò il campanello e dalla vettura scese un signore in abito da viaggio. Non il signor Rochester, ma un estraneo, alto ed elegante. Si sentì parlamentare nell'atrio e di lì a poco il nuovo venuto fece il suo ingresso. Si inchinò a Lady Ingram, giudicandola chiaramente la più anziana tra le signore presenti. «A quanto pare non arrivo al momento più opportuno, signora», disse, «visto che il mio amico Rochester non è in casa. Ma sono reduce da un lungo viaggio e credo di poter contare su un'amicizia così antica e così intima da installarmi qui fino al suo ritorno». Aveva modi più che urbani. L'accento mi colpì per qualcosa di insolito, non esattamente straniero, ma nemmeno del tutto inglese. L'età poteva essere quella di Rochester, fra i 30 e i 40 anni, ed era di carnagione stranamente scura. Per il resto era un bell'uomo, soprattutto a un primo sguardo. Osservandolo più attentamente, si scopriva in quella faccia qualcosa di sgradevole o piuttosto qualcosa che non riusciva a piacere. I tratti erano regolari, ma troppo molli, gli occhi grandi e con un bel taglio, ma il guizzo di vita che li animava era fiacco e vacuo, o almeno così mi parve. Il suono della campanella che annunciava l'ora di cambiarsi d'abito disperse la compagnia. Fu solo dopo cena che lo rividi, e a quel punto sembrava perfettamente a suo agio. ma la sua fisionomia mi piacque ancor meno. Mi colpiva il fatto che apparisse allo stesso tempo agitata e spenta. Gli occhi vagavano qua e là, senza scopo. Questo gli dava una strana espressione, un'espressione che non avevo mai visto prima. Per essere un uomo prestante, non certo antipatico, mi ripugnava decisamente. Non c'era nessun vigore in quella faccia dalla pelle liscia e dall'ovale perfetto, nessuna fermezza nel naso aquilino e nella boccuccia color ciliegia, nessuna intelligenza nella fronte bassa e senza protuberanze, nessuna autorità negli occhi castani e vacui. Stavo meditando su tutto ciò quando un incidente, piuttosto inatteso, spezzò il filo delle mie riflessioni. Il signor Mason, così si chiamava quell'uomo, rabbrividendo perché qualcuno aveva aperto la porta, chiese che fosse messo altro carbone al fuoco, visto che le fiamme si erano estinte e rimanevano solo i tizzoni ardenti. Il lacchè che lo portò uscendo si fermò vicino alla poltrona del signor Ashton e gli disse qualcosa a bassa voce. Riuscì a cogliere solo le parole «vecchia», molto molesta. «Ditele che se non si leva di torno la farò mettere in prigione», rispose il magistrato. «No, un momento», si intromise il colonnello Dent. «Non cacciatela, Ashton. Potremo approfittare dell'occasione. Sentiamo cosa dicono le signore». Poi continuò ad alta voce. «Signore, parlavate di andare a Hay a visitare l'accampamento degli zingari? Sam mi ha appena detto che una vecchia zingara del gruppo delle madri si trova in questo momento nella saletta della servitù e insiste per essere condotta al cospetto dei lor signori per leggere il futuro. Volete vederla?» «Ma colonnello», esclamò Lady Ingram, «non vorrete certo incoraggiare questa miserabile impostora. Mandatela subito via, a ogni costo». «Ma non riesco a convincerla ad andarsene», disse il lacchè, «e non ci riescono nemmeno i domestici. La signora Fairfax ci sta provando proprio ora, ma lei ha preso una sedia dall'angolo del camino e dice che niente la farà muovere di lì finché non sarà ammessa in nostra presenza». «E cosa vuole?» chiese la signora Ashton. «Dice che vuole leggere il futuro ai gran signori, signora, e giura che deve farlo e lo farà». «Ma come si presenta?» sussurrarono le signorine Ashton. «Oh, signorina, è una vecchiaccia brutta da far paura e nera come il carbone». «Perbacco, una vera strega!» esclamò Frederick Lynn. «Facciamola assolutamente entrare». «Ma certo!» gli fece eco il fratello. «Sarebbe mille volte peccato rinunciare a un tale spasso». «Miei cari ragazzi, ma cosa vi viene in mente?» disse la signora Lynn. «Non posso in alcun modo permettere una cosa così insensata», le diede manforte la signora Ingram. «Ma certo che puoi, mamma, e lo farai», scandì Altera Blanche, girandosi sullo sgabello del pianoforte dove era rimasta seduta in silenzio fino a quel momento. «Sono curiosa di conoscere il mio destino. Fate dunque entrare la megera, Sam». «Ma cara Blanche, ricordati!» «Come no, mi ricordo tutto quello che vuoi, però devo avere quello che voglio. Svelto, Sam!» «Sì, sì!» gridò tutta la gioventù all'unisono, uomini e donne. «Fatela venire, ci divertiremo un mondo!» Il lacchè indugiava. «Sembra così zotica», disse. «Andate!» gridò la signorina Ingram, e quello obbedì. Subito l'euforia si impadronì di tutti quanti e quando Sam tornò era in corso un gran scambio di scherzi e battute. «Si rifiuta di venire adesso», disse Sam. «Dice che la sua missione non è comparire dinanzi al volgo», così ha detto. «Vuole che la faccia entrare in una stanza da sola e quelli che intendono consultarla si presenteranno a uno». La signorina Ingram si alzò con aria solenne. «Andrò io per prima», annunciò, col tono del comandante di una truppa di disperati pronto ad aprire una breccia alla testa dei suoi uomini. «Oh, mia cara, mia diletta, ferma, ti rifletti», la implorò la madre. Ma lei le passò accanto maestosa e senza dir nulla varcò la porta che aveva aperto il colonnello Dent e la sentimmo entrare in biblioteca. I minuti passavano molto lentamente. Ce ne vollero 15 perché la porta della biblioteca si riaprisse. La signorina Ingram tornò verso di noi. «E dunque, Blanche?» disse Lady Ingram. «Che cosa ti ha detto, cara sorella?» domandò Mary. «Che ne pensate? Come vi sentite? Predice davvero il futuro?» chiesero le due Ashton. «Su, via, brava gente!» ribatté la signorina Ingram. «Non subissatemi di domande. Certo, vi meravigliate facilmente e altrettanto facilmente vi bevete qualunque cosa. A giudicare dall'importanza che tutti quanti, compresa la mia cara mamma, attribuite alla faccenda, sembra crediate fermamente che abbiamo in casa una vera strega, legata a doppio filo col vecchio signore dal piede caprino. Quanto a me, ho visto una zingara vagabonda che mi ha letto la mano come fanno tutte e mi ha detto quello che dice questa gente di solito. Ho assecondato il mio capriccio e adesso penso che farà bene il signor Ashton a imprigionare la megera domattina, come ha minacciato di fare». La signorina Ingram prese un libro, si appoggiò allo schienale della poltrona e così facendo si ritirò dalla conversazione. La osservai per quasi mezz'ora. In tutto quel tempo non voltò mai pagina e col passare dei minuti il suo viso si fece sempre più cupo, insoddisfatto, stizzito. Era chiaro che la zingara non le aveva detto niente di buono. E da quell'attacco prolungato di malumore e di mutismo mi parve che, a dispetto della sua pretesa indifferenza, desse un'importanza eccessiva a qualunque rivelazione le fosse stata fatta. Nel frattempo, Mary Ingram, Amy e Louisa Ashton dichiararono che certo non avrebbero osato andare da sole, nondimeno tutte e tre desideravano consultare la zingara. Fu aperta una trattativa e il ruolo di ambasciatore fu affidato a Sam. Dopo vari andirivieni, in seguito ai quali il suddetto Sam, credo, si ritrovò coi polpacci doloranti, l'autorizzazione fu finalmente storta, non senza grandi difficoltà, alla severa Sibilla e le fanciulle poterono recarsi tutte e tre insieme da lei. In mezzo al trambusto, mentre io avevo occhi e orecchi solo per la scena che si svolgeva davanti a me, udì qualcuno che si schiariva la voce al mio fianco. Mi girai e vidi Sam. «Scusate, signorina, la zingara dice che c'è in sala un'altra giovane da marito che non è ancora andata da lei e giura che non se ne andrà finché non le avrà viste tutte. Credo si riferisca a voi perché non ce n'è nessun'altra. Che cosa devo dirle?» «Ah, ci vado senz'altro!» risposi, felice dell'occasione inattesa per soddisfare la mia curiosità già parecchio sollecitata. Sgusciai fuori dalla stanza senza che nessuno mi notasse. Erano tutti riuniti intorno al tremebondo terzetto e chiusi piano piano la porta alle mie spalle. «Se volete, signorina», disse Sam, «posso aspettare nell'atrio. Se vi spaventa, chiamatemi e verrò subito». «No, Sam, tornate in cucina, non ho affatto paura». Ed era vero. Ero incuriosita e molto emozionata, invece. Elisabetta Piccolomini ha letto Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.